come pensare di prendere un iPhone e di dire dove lo metto il gettone del telefono. Sono un cellulare un po' invecchiato. L'eterno riposo, don Alleo, signore, risplenda ad essa la luce perpetua, riposo in pace, amen. L'eterno riposo, don Alleo, signore, risplenda ad essa la luce perpetua, riposo. Pronto? No, non mi disturba affatto, mi dica. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Met a girl over the net, saved our chats on a floppy diskette. It went well for a week or two. Oggi, come anticipato, ci occuperemo insieme a voi di un tema che ci riguarda tutti, ma proprio tutti, ovvero il nostro rapporto con le nuove tecnologie. Beh, inutile dire tutti i vantaggi che hanno portato nella nostra vita, ma c'è un lato B della medaglia, quello che vogliamo esplorare oggi insieme a voi, ovvero quella lenta trasformazione che viene nella vita di molti di noi, per cui una cosa che ci serve molto improvvisamente diventa una cosa assolutamente necessaria, di cui non si può fare a meno e alla fine si trasforma in una trappola. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Alberto Pellai, medico, ricercatore all'Università di Milano e psicoterapeuta, che ci aiuterà a entrare nel tema. Intanto benvenuto e bentornato, Alberto. Ciao Nicoletta e buongiorno a tutti. Alberto, esiste davvero una dipendenza da tecnologie e soprattutto come possiamo accorgerci che ci siamo dentro anche noi? Ma esiste una dipendenza e la potremmo considerare forse la forma più grave, probabilmente non riguarda la maggioranza di noi, perché la dipendenza è proprio quel vivere in funzione dello strumento tecnologico e non riuscire più a fare nient'altro che non sia qualcosa connesso al nostro profilo Facebook, alla nostra mail o qualcosa che avviene nel web. Esiste però un'altra dimensione del problema che un po' ci riguarda tutti e che potremmo chiamare la iperconnettività, cioè molti di noi si trovano a fare una vita da iperconnessi, costantemente in ansia se non è arrivata una mail, quindi dover controllare il proprio indirizzo mail magari 10 volte in un'ora, oppure mi sveglio al mattino e la prima cosa che faccio vado a verificare quale messaggio ho dentro WhatsApp o quale SMS mi è arrivato. Ecco, questo è un genere di esempio e di situazione che ognuno di noi vive, per cui ci rendiamo conto che il palinsesto della nostra giornata è sempre più impattato e condizionato da qualcosa che 10 anni fa non esisteva, che probabilmente su alcuni aspetti della nostra vita l'ha resa anche migliore, nel lavoro ci ha reso più efficienti, ma che al tempo stesso ci ha tolto molte cose. Tutti noi con l'iperconnettività continuiamo a lavorare anche quando siamo a casa, spesso anche alla sera, a volte anche di notte. Allora Alberto, se sei d'accordo, oggi apriamo con il tuo aiuto una piccola clinica radiofonica di detox dalla tecnologia, insomma un programma disintossicante. Cercheremo di capire cosa potremmo fare per prenderci il meglio da cellulari, social network e PC, senza però trovarci dentro a modalità che tu hai definito compulsive, che possono limitare il grado di libertà della nostra vita. Intanto ringraziamo subito Riccardo che ci ha mandato un tweet a proposito di essere sempre connessi, un abbraccio dall'Argentina. Ci scrive anche che sta utilizzando il traduttore di Google, mentre Piero subito al 349-238-6666 a proposito di essere connessi e ci fa piacere naturalmente, Piero ci scrive: per me che sono in strada tutto il giorno la tecnologia è diventata indispensabile. Alberto, ma sì, direi che poi probabilmente aprono bene la questione anche sul genere di riflessione o di percorso che possiamo fare oggi insieme ai nostri ascoltatori, cioè capire qual è il nostro punto di equilibrio, cioè la nostra capacità di essere in controllo delle tecnologie e di tutto quello che ci possono offrire, ma allo stesso tempo saper mettere un limite quando invece ci accorgiamo che implicitamente e indirettamente sono le tecnologie che progressivamente hanno cominciato a controllare la nostra esistenza e conseguentemente ci trovano protagonisti di comportamenti non solo che non avremmo voluto, ma che probabilmente ci fanno male. Mi spiego, sì. Usciamo di casa, abbiamo dimenticato il cellulare, dobbiamo sopravvivere una giornata senza, ok, saremo dei sopravvissuti, ma il concetto è quanto questo mi mette ansia, cioè si sposta poi dentro alla mia mente in una zona che è una zona un po' a rischio, no? Mi aggiunge, mi dà un sintomo, mi dà una fatica, ecco lì è forse dove poi scopriamo che non siamo così liberi. A quali altri segni indicatori di rischio dovremmo fare attenzione? Come fa insomma uno ad accorgersi che magari è già dentro il problema di cui parliamo oggi senza magari essersene reso conto? Probabilmente ci risulta più facile immaginarlo sugli altri, cioè quante volte ci è capitato di parlare con una persona e quella persona invece di guardarci negli occhi sta guardando il video, il computer e sta verificando le sue mail. Sì. E quindi noi soffriamo probabilmente perché sentiamo che non c'è un livello di attenzione e di concentrazione adeguato. Quante volte ci mettiamo le mani in tasca per tirare fuori il cellulare e verificare se c'è arrivato un nuovo messaggio, una nuova mail, senza aver avuto nessun genere di segnale. Certo. In quel senso. E se questa cosa qua, metti, la facciamo più volte al minuto, ecco, diventa proprio una sorta di compulsione che effettivamente disturba il flusso dei nostri eventi, ma soprattutto poi il flusso dei nostri pensieri, cioè come se la mente fosse bloccata costantemente su funzioni di controllo dello strumento tecnologico e non fosse libera per fare altro. Allora, 800240024, in quali dei segni e dei sintomi raccontati da Alberto Pellai vi riconoscete? Tra l'altro, Alberto, noi stiamo parlando di adulti, ma immagino che ci siano tantissimi genitori all'ascolto che in questo momento stanno pensando ai loro figli, perché spesso i giovanissimi sono loro stessi vittime di quello di cui stiamo parlando oggi. Tu hai scritto un libro per genitori e figli dal titolo Lasciateci crescere in pace, pubblicato da Erickson. Ma come traduciamo questo titolo nella concretezza? Vuol dire che li dobbiamo lasciare andare per la loro strada senza preoccuparci più di tanto, oppure dobbiamo fare attenzione a degli aspetti del loro uso delle tecnologie, intervenire quando ci rendiamo conto e ci sembra, no, che stiano esagerando e che questo generi un problema? E soprattutto come capiamo che un tredicenne o un teenager è già dentro al problema di cui ci occupiamo oggi? Perché sono, i ragazzini sono sempre connessi. Credo che questa cosa, no, di sentirci in pace o eventualmente sentirci tranquilli noi e loro quando siamo in casa ed ognuno è davanti al suo schermo, effettivamente per noi genitori ci dà forse una certa sensazione di tranquillità. Se sono in casa davanti a uno schermo non sono fuori a mettersi nei pericoli e quindi questa cosa ci lascia magari un po' tranquilli. Poi è chiaro che dentro allo schermo possono invece trovare tutti i pericoli possibili e immaginabili, ma rimane il dato di fatto che se noi abbiamo un figlio che ha costantemente in mano il cellulare, quindi è diventata proprio una parte del suo schema corporeo e lì si vede, proprio vanno in giro e tu vedi questa mano destra o sinistra un po' protesa in avanti che fa da vassoio al loro cellulare, che non viene mollato mai. Ecco, questa cosa qua effettivamente... Ecco, chiediamo ai nostri ascoltatori, ai genitori di adolescenti che hanno sempre il cellulare in mano, come si comportano, che cosa dicono loro, se cercano di fermarli. Tante volte però siamo tornati a dire che i ragazzi poi imitano molto, no? Quello che i modelli, che anche noi genitori e soprattutto noi genitori siamo modelli per loro, in quante famiglie, oltre alla televisione accesa quando si pranza, si cena, ci sono anche tutti i cellulari, no, pronti per verificare l'arrivo di una mail o di un messaggio. 800 24 00 24, aspettiamo le vostre telefonate, ma ci piacerebbe anche ascoltare le vostre storie, magari di quel giorno che siete uscite da casa senza cellulare, per tutto il giorno avete dovuto convivere con questa mancanza, come vi sono andate le cose? Siete sopravvissute oppure il giorno dopo, dimenticando il cellulare, avete deciso no, guarda, torno indietro e lo prendo? Oppure magari di quella vacanza in cui vi siete trovati in un luogo in cui non c'era campo e quindi avete dovuto fare di necessità virtù. Avete sofferto oppure ve la siete goduta? Saremo hacker dei nostri PC, campioni di bocce con Nintendo Wii, vetrina del salotto senza porcellana, ma con il bambolotto di Tony Montana. Tra l'altro, la sanità pubblica ha individuato non pochi problemi che magari 20 anni fa non esistevano e che oggi invece sono da osservare proprio a causa dell'eccessivo uso di cellulare e tecnologie che ci contraddistingue. Insomma, lo sappiamo, noi viviamo immersi nella tecnologia. Ma come la tecnologia ci ha modificato? In linea con noi è tornato a trovarci il professor Piero Barbanti, neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Professore, studi recentissimi dimostrano ciò che da qualche tempo avevamo cominciato a intuire o forse a temere. La tecnologia modifica il cervello, ci fa pensare, sentire, sognare in modo diverso. Questo è sempre vero per i giovani, non sempre per i meno giovani? Ma intanto per fortuna che il nostro cervello si adatta. Diciamo che le nuove leve sono civiltà di altri sensi, non di altri tempi. Di altri sensi perché è indubbio che il canale visivo, oltre che quello tattile, sentivo prima la vibrazione del cellulare, è particolarmente stimolato. Cosa succede? Innanzitutto noi stiamo vivendo, e c'è un bellissimo libro a proposito del professor Maffei, che è un accademico dei Lincei, sulla velocità del cervello. In realtà lui enfatizza il fatto che il cervello è una macchina lenta, più che veloce, ed è bellissimo spiegare perché. Si stanno stimolando vie veloci emozionali. Pensiamo bene, noi adesso sogniamo a colori, questo dice questo studio scientifico, e a volte abbiamo, anziché l'arto fantasma, quella terribile sensazione degli amputati, sì, la vibrazione fantasma. Questo perché il nostro cervello riceve costantemente informazioni molto rapide. Se io ascolto la filastrocca di una nonna o se ascolto un suo resoconto, mi ci vogliono 30 secondi, 15 secondi per sentire, stratifico diversamente l'informazione. Quando io guardo qualcosa, sono rapidamente inondato per canali paralleli e non successivi di forma, colore, dettaglio, e questo evidentemente lascia delle impronte indelebili, se è vero che le nuove leve, rispetto a chi è nato in epoca da televisione in bianco e nero, sogna a colori. Questo ci deve un pochino far pensare, senza dubbio nel bene, cioè il cervello che si adatta e ci consente da un punto di vista evolutivo di essere sempre pronti alle nuove esperienze. Una volta avevamo una grande corteccia olfattiva, il rinencefalo, adesso è ben poca cosa perché non dobbiamo più tanto annusare, sappiamo già quello che mangiamo, se è buono o no, almeno speriamolo. Speriamolo, professor Barbanti, ma lei che rapporto ha con la tecnologia? Io con la tecnologia ho un rapporto da mancino come lei, cioè, però sono un mancino pentito perché so usare il mouse solo con la destra. C'è da dire, avendo io superato gli ANTA, anzi superato i 50, che la plasticità, che è il requisito necessario per fare in modo che la tecnologia ci permei, è con l'età un po' minore. Cos'è questa benedetta neuroplasticità? La neuroplasticità, se dovessimo dirla in due parole, sono i neuroni che si fanno crescere i capelli o li cotonano, cioè questi dendriti che sono le parti ricettive del neurone sempre più arborizzate, sì, e poi che espongono meglio i loro recettori. Ebbene, facendo questo mandiamo a memoria, e tutto questo avviene nell'ippocampo, che è la zona dell'apprendimento, della memoria e delle emozioni, mandiamo a memoria sempre meglio. Però c'è un però, noi abbiamo delle cellule staminali che sono dei neuroncini pronti a diventare in realtà neuroncini vicino ai vasi nell'ippocampo, ma ci vogliono stimoli per farli differenziare e per fare in modo quindi che noi memorizziamo meglio e ci aggiorniamo con i tempi. Cosa possiamo fare? Beh, intanto sperare in Dio, però ci sono dei dati per esempio sugli acidi grassi poliinsaturi, sugli omega 3. Sì. Cosa fanno gli omega 3? Gli omega 3 entrano nella membrana del neurone e dicono al colesterolo che sta sulla membrana del neurone: fatti più in là, rendono la membrana più fluida, il neurone più cotonabile, le sue estroflessioni sinaptiche più pronte, e questo è un meccanismo attraverso il quale la nostra neuroplasticità può mantenersi meglio negli anni e sognare in 3D per il futuro. Grazie professor Barbanti, rido ancora del neurone cotonato, ma è un'immagine molto chiara. Buona giornata. A proposito di Nicolette, buona giornata. Arrivederci a voi. Dicevo, signori e signori, fatto di vita vero, un viaggio che Un telefono. Oh. Teglilo, Ciccio. Luci in sala, per favore. Questa è quella zona lì. È lì, è quella zona lì. Era quello là. Ma spegnilo! Lo spegno, mezz'ora che stiamo qui a sentire la sinfonia. Vi è capitato che il vostro cellulare suonasse nei momenti meno opportuni? 800 24 00 24. Che cosa vi dà fastidio degli amici, dei colleghi, delle persone che vivono accanto a voi, dei vostri figli, quando usano la tecnologia? Ce lo state scrivendo. Max ad esempio dice: se parlo con te ti arriva un sms, buona educazione direbbe che finisci di parlare con me e poi ti leggi l'sms, invece no, l'sms diventa prioritario. Raccontateci che cosa vedete del vostro rapporto con la tecnologia e spesso, come ci suggeriva Alberto Pellai, non riusciamo a vedere esattamente che cosa stiamo facendo noi, ma proviamo a rispecchiarci negli altri. Alberto. Sì, direi che questo probabilmente poi sta già avvenendo nelle nostre famiglie, cioè la dimensione dell'iperconnettività che ci riguarda è qualcosa che ci viene spesso raccontato e rispecchiato dalle parole degli altri. Noi siamo molto bravi come genitori magari a volte a preoccuparci dell'iperconnettività dei nostri figli, forse certo. Loro sono meno abituati poi a restituirci, ma quante volte magari durante un pasto fermiamo il pasto perché arriva una telefonata di lavoro, perché siamo in attesa di una mail, perché ci arriva un sms. Senti, a noi adesso andiamo a sentire che cosa ci dicono i nostri ascoltatori. Abbiamo Angelo da Modena e Maurizio da Bologna. Se sono brevi, riusciamo a sentirli prima dei mercati, ma Carmelo mi dice di sì, per cui Angelo, buongiorno. Carmelo, buongiorno. Punta su di lei. Buongiorno. Allora, un'esperienza molto molto vicina e poco tempo fa è successa. Io ho una ventina d'anni che seguo dei ragazzini che fanno hockey. Sì. Cosa succede? Allora, i ragazzini di 20 anni fa probabilmente mi facevano arrabbiare per la confusione che succedeva nel pulmino o in treno o cose del genere. Adesso io devo fare delle riunioni con i genitori di questi ragazzini, perché quando partiamo nel pulmino e gli ultimi 20 minuti prima di scendere per le partite, devo dire di interrompere cellulari, tutto quello che rimane per iPad, per essere concentrati sulla partita. Bene, di nascosto, nonostante manchino pochi minuti all'inizio dell'evento, questi cercano di fare, diciamo, quello che non dovrebbero fare. I furbi, no? Come abbiamo sempre fatto tutti noi quando eravamo ragazzi, Angelo. Cioè, le cose... ragazzi di 12-13 anni, certo. E questa cosa con i genitori ho dovuto prendere posizione. Ha fatto bene. Per... tutto qua. Grazie Angelo, Alberto. Per questa così una storia che ci racconta molto, no? E ci racconta, esatto, anche quanto la tecnologia in qualche modo catturi la nostra attenzione. E l'altra cosa che dovremmo domandarci come genitori è questa, cioè noi 20 anni fa un genitore litigava con un figlio che voleva conquistare libertà, uscire di casa, andare nel mondo, vedere gli amici. In questo momento spesso dobbiamo litigare coi figli perché stanno troppo chiusi in camera, attaccati a un PC, a guardare dentro uno schermo e non si muovono dalla loro sedia. Quindi che cosa imparano dell'esplorazione del mondo reale, concreto, i nostri figli? Ecco, questa è una domanda che tutti dovremmo porci. Raccontateci. 800 24 00 24. Maurizio ci chiama da Bologna prima dei mercati, se no Carmelo, Maurizio ci taglia. Vada. Sì, buongiorno. Buongiorno. Ascolti, la mia è solo una piccola testimonianza. Io sono un insegnante di scuola guida, sì. E molto spesso abbiamo bisogno di contattare i ragazzi per molteplici ragioni. Sì. Se lei li chiama al telefono non rispondono. Lei gli manda un WhatsApp, 2 minuti, arriva subito la risposta. Quindi proprio mi è diventato, è cambiato il modo di comunicare anche con i ragazzi. È vero, e non solo con i ragazzi, sempre più adulti non rispondono al telefono, ma attraverso WhatsApp rispondono subito. E la comunicazione è cambiata. Alberto, questo è il suggerimento e l'osservazione di Maurizio. Sì, questo è quello che poi sperimentiamo tutti i giorni, cioè la tecnologia cambia così velocemente che i nostri tempi di adattamento non sono così rapidi quanto i cambiamenti della tecnologia. Alla fine siamo sempre dietro a rincorrere una innovazione alla quale dobbiamo abituarci, e quando stiamo per abituarci arriva subito una nuova innovazione. Cuore e denari. Siamo schiavi. Questo non è il solito monologo sul telefonino, questo è un monologo, se così possiamo chiamarlo, sull'ansia che ci provocano. Cioè, uno esce di casa, ci avete mai fatto caso? Cosa vi succede quando vi rendete conto che avete dimenticato il cellulare a casa? Tu scendi, ho dimenticato, mazza, l'ho dimenticato, ho dimenticato il cellulare, vai nel panico. Gente che parte con la macchina, se parti da Roma per andare a Milano o viceversa, facciamo da Roma a Milano, se arrivi ad Orte e ti rendi conto che non hai il cellulare, torni indietro, siamo schiavi di questo cellulare. Noi e il telefonino, un rapporto che è sempre più stretto, anche se ormai abbiamo da tempo smesso di chiamarlo telefonino, lo chiamiamo smartphone. Uno strumento che, oltre alle telefonate, ci permette di fare un sacco di cose, davvero tutte, non ultimi gli acquisti. Insomma, il telefono assomiglia sempre di più ad un computer, ma assomiglia sempre di più anche ad un portafoglio. Basti pensare al lancio di Apple Pay, il sistema per i pagamenti via iPhone, che è stato lanciato negli Stati Uniti la settimana scorsa, e pensate, ha registrato 1 milione di attivazioni in 72 ore. Carmelo, che dici? È sbalordito anche lui. È molto semplice utilizzarlo. Basta avvicinare l'iPhone ad un POS abilitato, che è il dispositivo quello solito, no? Per pagare con le carte. Il cellulare riconosce la nostra impronta digitale e per pagare, tic, basta un tocco sullo schermo, proprio come per fare una telefonata. Insomma, lo shopping è destinato a diventare sempre più semplice, quasi un gesto naturale. Già, la carta di credito ci faceva sentire molto poco il peso dei denari che uscivano, però ora, credo, con le tecnologie di questo tipo, le spese saranno ancora più impercettibili. Ma attenti però, perché alla fine l'estratto conto a fine mese è sempre quello. Quindi bisogna anche capire, e quello che cercheremo di fare, come evitare i rischi e non farsi prendere la mano, prendere il tocco. Noi vi chiediamo allora all'800 24 00 24 se usate smartphone e tablet per fare acquisti, e se vi ricordate precisamente su quante e quali piattaforme avete registrato i dati della vostra carta di credito, per voi e anche per i vostri figli, ci sono anche loro, eh sì. 800 24 00 24, iniziate a prenotare le vostre telefonate, perché questo sarà il tema della seconda parte di Cuore e Denari. Viaggiare evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure. E noi continuiamo a viaggiare con le storie e i messaggi dei nostri ascoltatori. In linea con noi abbiamo il professor Alberto Pellai. Oggi cerchiamo di capire quanto la tecnologia è una risorsa e quanto è diventato invece un limite e ci ingabbia. Alberto, intanto, se ci siamo riconosciuti nel profilo da te tratteggiato, dimmi la prima mossa per cercare di avere un rapporto più equilibrato con le tecnologie e quindi prendere il meglio, evitando di farsi ingabbiare. Ma dovrebbe essere proprio una mossa in cui noi facciamo un'autodiagnosi, cioè tra le tante cose che mi ingabbiano nella mia relazione con la tecnologia, qual è la prima da cui posso cominciare a distaccarmi, quella che posso cominciare a fare meno o a ridurre. Esempi molto concreti: se alla mattina mi sveglio e la prima cosa che faccio è controllare WhatsApp o mail, ecco, posso ritardare di mezz'ora o 40 minuti questa funzione. Oppure se mentre sto lavorando mi accorgo che 7, 9, 20 volte in un'ora io vado a verificare se mi è arrivata una mail, ecco, posso fare un'ora di sconnessione dove io vado avanti a lavorare e mi riconnetto dopo un'ora, e quindi ho fatto un'ora completamente immerso nel flusso dei miei pensieri e nella concentrazione del lavoro che sto svolgendo. Quindi la prima mossa sarebbe proprio provare a scegliere un campo d'azione in cui io provo a verificare se sono capace di controllare la tecnologia, oppure se lascio che la tecnologia controlli me e quindi mollo subito sul mio obiettivo. Riuscite a spegnere magari in qualche momento della giornata il vostro cellulare? Dovete fare, incontrate un amico, decidete di spegnerlo, oppure rischiereste di fare quello che è capitato a Giorgio. Max ci scrive che al suo amico Giorgio hanno fatto suonare il cellulare al momento del rito del matrimonio in comune, perché erano troppo sicuri che non l'avrebbe silenziato, e lo hanno anche filmato. 800 24 00 24, sposo con suoneria incorporata serata. Andiamo a Giovanni che ci chiama da Milano e poi a Luca da Padova. Buongiorno Giovanni, benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie. No, io riporto il mio caso della dipendenza da BlackBerry aziendale. Sono partito per lavoro 4:30 del mattino, sono arrivato a Linate e il classico gesto prima del check-in: ci si tocca le tasche, ci si tocca la giacca. Ho scoperto di aver lasciato il cellulare in carica a casa. Aereo dopo un'ora sono uscito, di cosa? Salivazione azzerata, pulsazioni a 1000? 140.000. Ho chiesto disperatamente ai taxisti chi riusciva a fare il record di arrivare a casa e tornare indietro. Sono riuscito a prendere l'aereo, non ho dormito sull'aereo, credo di essermi rilassato credo dopo almeno 6 ore. Questo stato di ansia, devo dire che quella volta lì mi ha preoccupato molto, perché certo. non avrei mai pensato di reagire in questo modo. Oggi con un figlio adolescente che è attaccato al telefono, sto incominciando a vedere reazioni di ansia anche lui, devo dire siamo un pochettino preoccupati, a tutti i richiami lui ci rinfaccia, ma anche voi ci avete lì il telefono, anche tu lo continui a guardare. E questa cosa, essendo il primogenito, non l'ho mai sperimentata, quindi ero molto interessato a sentire anche un po' i consigli della gestione del tempo senza essere invasivi e il tentativo di dire, ascolta, esci un po' e vedi la gente reale, non stare in casa, oggi si fa veramente fatica. Quindi anche come gestire questa relazione, insomma, col figlio adolescente che comunque vede noi come modelli certo. non riusciamo magari a... e rischiamo di essere troppo... troppo cattivi o invasivi nella loro vita. Ecco, ascolto poi. Grazie. Alberto, tanti spunti. Iniziamo a dare qualche consiglio concreto, qualche mossa. Abbiamo detto che avremmo aperto una sorta di clinica di detox. Ma direi che nel racconto del nostro ascoltatore c'è proprio, ci sono due persone che hanno una situazione molto simile e che un po' se la mantengono perché se la rinfacciano a vicenda. Io vorrei che tu lo spegnessi e no, ma io non lo faccio perché anche tu fai la stessa cosa. Allora direi li mandiamo in detox entrambi, cioè la sfida potrebbe essere per loro dire ad alta voce effettivamente in questa famiglia noi siamo troppo dipendenti dalle tecnologie, tanto che ci vengono proprio sintomi, entriamo in ansia nel momento in cui non possiamo staccarcene, dobbiamo imparare a farne a meno, facciamo un esperimento, cioè proviamo a prendere un sabato pomeriggio dove usciamo dall'ambiente, stacchiamo le tecnologie e viviamo un sabato pomeriggio proprio in detox da tecnologia, dopodiché verifichiamo quello che ci succede. Bisogna proprio partire da piccole mosse, darsi degli obiettivi comportamentali molto concreti e verificare quello che ci succede. Dopo l'ennesimo spegni il cellulare a tavola, Roberto da Padova ha buttato il cellulare nella brocca dell'acqua. La figlia è arrabbiata, ma la pace a tavola è tornata. 800 24 00 24, raccontateci le vostre storie. Luca ci chiama da Padova, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Luca. Io sono tornato un mese fa da un viaggio bellissimo in Kenya. Siamo stati 17 giorni con tutta la famiglia. Chissà che bello. Meraviglioso. Ah, sì, eh. Cosa le è piaciuto di più? Beh, mi è piaciuto, abbiamo fatto il safari, abbiamo dormito una notte in savana, è stata un'esperienza con l'adrenalina a 1000 per 2 giorni, è stata una cosa bellissima, veramente. E il motivo della telefonata, poi arrivo anche alla domanda, il motivo della telefonata è che io scientemente, assieme alla moglie e i 3 figli, siamo andati senza cellulare, senza telefonino, senza alcun smartphone, senza nulla, proprio perché abbiamo voluto... riservarci del tempo a disposizione. Ti devo dire che all'inizio è stato bello, ma poi è stato difficilissimo, cioè io non mai e poi mai avrei pensato non sentirsi soli, perché ero con la mia famiglia, però mi mancava da morire questo contatto con il mondo esterno, con WhatsApp, con le mail, perché ho anch'io BlackBerry e quindi ricevo le mail e via dicendo. Quindi è stata durissima, 15-17 compresi i voli, senza mail, senza telefonino. Un po' fuori dal mondo. È dura, mi sono reso conto di quanto dipendente anch'io sia. Io volevo fare però una domanda a proposito di clinica all'esperto. Io ho appurato e ho visto, perché mi è arrivata a casa, mia figlia ha un telefonino ricaricabile, che lei aveva chiesto dei servizi a pagamento erotici. cioè lei era entrata in un servizio a pagamento erotico. Allora abbiamo chiamato, non abbiamo fatto drammi, abbiamo cercato di capire. Quindi abbiamo avuto la conferma che mia figlia maggiore cerca questi siti pornografici. Sì. Ecco, allora clinica... Sua figlia maggiore, mi scusi Luca, quanti anni ha? 15. Quindi io volevo chiedere, in questo caso, quando è accertato il fatto che l'uso di questi social network o di internet porta a un'educazione non, tra virgolette, sana, oppure lasciata alle immagini inequivocabili della pornografia, in questo caso cosa si può fare? Cuore e denari. Siamo tornati insieme con il caso suggerito da un nostro ascoltatore, Alberto. La ragazza di 15 anni utilizza il cellulare e naviga su dei siti che sono pornografici. Ecco, intanto diciamo che è abbastanza inusuale, cioè questo è un comportamento tipico dei maschi e poco molto delle meno femmine. Frequente nelle ragazze. Poi cosa fare, come intervenire educativamente quando i ragazzi o i bambini entrano, cioè consumano abbondantemente porno online, ci vorrebbe un'intera trasmissione per lavorarci, però diamo due o tre indicazioni. Cioè il porno, quando viene usufruito da ragazzi molto giovani, è davvero molto eccitante, di un'intensità tale che può davvero uncinarli e renderli incapaci poi di staccarsi, cioè come se tutte le loro fantasie eccitatorie sessuali dovessero essere poi costruite con le immagini che ottengono dal porno online. Per cui effettivamente il primo lavoro di detox è quello che ha fatto il genitore, cioè riconoscere il problema e immediatamente dire: io come adulto ti metto un limite, cioè ti do davvero una sorta di barriera, perché è fondamentale che i nostri figli, che devono avere fantasie sessuali, sia chiaro, cioè devono proprio sperimentare il percorso dell'eccitazione in questo periodo della loro vita, però non saturino queste fantasie con le immagini della pornografia, che sono troppo intense, troppo potenti. Cioè riempirsi a 14 anni di quell'immaginario vuol dire a 18 anni non sapere più cosa mettere nelle proprie fantasie, e soprattutto poi quando dovranno trasformare dalla fantasia alla realtà, entrare nell'agito sessuale, essere troppo pieni di immaginario pornografico significa poi cercare nella realtà una sessualità che non è una sessualità di intimità e di connessione, ma spesso cerca di replicare un po' l'agito visto nella pornografia, che non fa bene a nessuno, soprattutto ai giovanissimi. Andiamo a sentire Giovanni che ci chiama da Roma. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno. Grazie per l'intervento. No, volevo dire soltanto una cosa, che io sarà anche una cosa strana, però a me piace. Quando non ho il cellulare mi sento tranquillo, mi sento rilassato, sarà una cosa anomala, magari il professore me la può spiegare. Io lo uso per lavoro, così come il tablet, quindi email. Oggi il lavoro è un continuo a gestire problemi. Però, ecco, non so se è una cosa strana, anomala, ma non ho il cellulare. Secondo me, Giovanni, dovrebbe essere così, Alberto. Ci si sente strani quando magari si è assolutamente nella norma. Ma credo che le parole di Giovanni ci raccontano due cose. Lui di sicuro sa usare la tecnologia e non ne viene usato, ma probabilmente dietro a queste parole c'è che la vita di Giovanni è talmente piena di cose concrete, cioè Giovanni ha una vita reale che lo soddisfa in modo pieno, e conseguentemente la tecnologia non la deve né riempire né sostituire, ma semplicemente supportare, che è quello che dovrebbe succedere a tutti noi. Allora Alberto, i tuoi suggerimenti sono piaciuti ai nostri ascoltatori e i tuoi suggerimenti ne hanno attivato altri. Ad esempio Claudio da Venezia ci scrive: lui ha risolto tenendo disattivata la comunicazione date, attivandola ogni 2 ore, così almeno so che per 2 ore non riceverò altro che telefonate. Sandro ci scrive: a casa mia mi impongo che durante i pasti il cellulare non sia spento, insomma il cellulare non esista. Stefano da Lucca dice: sapete quale sarebbe la prima mossa? Smetterla di parlare al cellulare mentre si è alla guida. 800 24 00 24, se volete parlarne con noi. C'è un ricercatore dell'Università di Milano che ha scritto un libro molto interessante, A dieta di media, edito dal Mulino, in cui fa il parallelismo tra la dipendenza da tecnologie e l'obesità, due temi che sembrano apparentemente molto lontani, ma che leggendo il suo libro si scopre hanno tanti aspetti in comune. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Marco Gui, che è ricercatore di sociologia dei media all'Università Bicocca di Milano. Buongiorno dottore. Buongiorno a voi. Che cosa hanno in comune i chili in più e l'utilizzo della tecnologia? Sembrano due mondi molto lontani, lei li avvicina benissimo, tra l'altro secondo me ha avuto un'idea geniale. Complimenti. Grazie. Cosa hanno in comune? Hanno in comune che sono due manifestazioni della difficoltà di gestire la sovrabbondanza. L'uomo premoderno aveva tradizionalmente la difficoltà di gestire la scarsità, doveva procurarsi delle risorse comunicative ma anche alimentari, e l'uomo di oggi, almeno nei paesi ricchi, ha sempre di più la difficoltà di gestire invece il troppo, il sovrabbondante. Quindi le manifestazioni di questa difficoltà di gestione sono molto simili nei due campi. Noi siamo attirati per esempio da alcune cose quasi fisiologicamente nel campo del cibo, dal dolce, dal grasso, dal salato, e queste stesse cose però ci fanno anche male se assunte in misura eccessiva. La stessa cosa capita nella comunicazione: noi siamo attratti dal sensazionale, dagli stimoli di natura sessuale, per esempio dalle celebrità, da alcuni tipi di violenza sia verbale che fisica, ma queste stesse cose se assunte troppo, se assunte in modo sbagliato ci fanno male. Però con la differenza che c'è una maggiore consapevolezza su quello che mangiamo, sul cibo, e forse questa consapevolezza non ce l'abbiamo nell'utilizzo della tecnologia. Sì, nel caso del cibo noi veniamo da già un decennio, anche più di un decennio, di sensibilizzazione sull'alimentazione sana. Negli Stati Uniti sono state fatte molte campagne, alcune anche dalla moglie del presidente Obama in prima persona. Pensiamo alle mense scolastiche, all'attenzione che hanno al giorno d'oggi rispetto al tema dell'obesità. Sì, sulla comunicazione siamo c'è ancora un po' da lavorare. Siamo proprio all'inizio, perché ci stiamo rendendo conto oggi degli effetti collaterali, perché gli smartphone con la connessione sono diffusi da relativamente poco. Ci stiamo rendendo conto. Lei nel suo libro propone quattro parole chiave che ci possono aiutare a maturare una maggiore consapevolezza, no? Che è la condizione per imparare a fare quella giusta dieta di media che lei suggerisce, no? E che ci permette di vivere meglio. Sono quattro parole, quattro mosse che in fondo riprendono i temi su cui la letteratura si sta concentrando. Abbiamo meno di 3 minuti, per cui riusciamo a raccontare rapidamente queste quattro parole dando magari delle indicazioni. La prima è autolimitazione, ne abbiamo parlato nel corso della trasmissione con i suggerimenti di Alberto Pellai. Sì, proviamoci. Il concetto principale è che l'utente dei media in un panorama di sovrabbondanza ha una responsabilità molto maggiore rispetto al panorama precedente. Quindi la limitazione è il primo tema che deriva dall'analisi della letteratura. Significa che noi dobbiamo costantemente dare una strategia al nostro utilizzo dei media per evitare che diventi eccessivo. Le ricerche mostrano che la maggioranza degli utenti è insoddisfatta del tempo che dedica a diverse attività e del tempo complessivo, perché lo ritiene eccessivo. Questo vuol dire che gli schermi creano una sorta di dipendenza. Questo emerge sia nel caso della TV che nel caso di internet. Quindi che cosa fare? Dato che non esiste la quantità giusta per tutti, occorre auto-osservarsi, essendo consapevoli che la ricerca mostra che il consumo eccessivo provoca sempre insoddisfazione. Quindi la domanda che ci possiamo fare è: quali sono le aree di insoddisfazione che io ho nella mia vita quotidiana relativamente ai media? Ci sono anche dei software che possono aiutarci a fare questa auto-osservazione, per esempio rescuetime.com è un software che si può scaricare su PC, ma anche un'applicazione ci permette di fare quella così agenda della tecnologia come facciamo l'agenda della nostra dieta quotidiana. Grazie al dottor Marco Gui per essere stato con noi, anche ad Alberto Pellai. Ricordo il titolo, A dieta di media, edito dal Mulino. Cuore e denari. diciamocelo, internet ci piace, c'è poco da fare. Quando non c'è, ci manca. E ci piace ancora di più navigare dal nostro smartphone o dal nostro tablet. E a molti piace anche fare acquisti in questo modo. Allora, oggi a Cuore Denari parliamo di commercio elettronico, ma parliamo soprattutto di ciò che compriamo con i nostri dispositivi mobili e dei rischi che potremmo correre. Sappiamo che per fare un acquisto online dal computer o dal nostro smartphone o tablet dobbiamo solitamente registrare i dati di una carta di credito oppure di una prepagata. Questo serve anche per spese molto piccole, alcune applicazioni ci costano all'anno come un caffè, eppure dobbiamo registrarci ugualmente. Allora oggi dedichiamo quest'ultima parte di Cuore Denari ai consigli per non farsi prendere la mano e non correre rischi. Ci aiuta Enrico Pagliarini, conduttore di 2024. Ciao Enrico. Buongiorno a tutti, ciao Nicoletta. Allora, ai nostri ascoltatori oggi chiediamo che cosa comprano, come sono cambiati i loro acquisti e soprattutto con che frequenza lo fanno. 800 24 00 24, ma vorrei aggiungere anche se sono tranquilli e se hanno storie da raccontarci. Quella volta che 800 24 00 24. Enrico, noi prima abbiamo citato l'Apple Pay, è un sistema che permette per ora solo in America. Con l'iPhone, la propria impronta digitale e un POS di pagare con un tocco sullo schermo del proprio telefono. Secondo te arriverà qualcosa del genere anche in Italia? Allora, vi dico che qualcosa del genere esiste già. Apple Pay dovrebbe arrivare forse il prossimo anno, però ci vorranno alcuni mesi. In Italia ci sono soluzioni simili, per il momento solo per la piattaforma Android, quindi gli smartphone che hanno come sistema operativo Android. Esistono dei sistemi per virtualizzare la carta di credito sul telefonino. Allora, ci sono, cito tre proposte che esistono già sul mercato. Lanciata questa settimana TIM Smart Pay, quindi uno va nei negozi TIM e può avere una carta di credito per pagare in questa modalità, quindi avvicina il telefono al POS e paga. Da aprile esiste già Vodafone Smart Pass e poi ci sono anche delle proposte di Poste Mobile che virtualizzano le carte PostePay e PostaMat. Altre novità sono attese verso la fine dell'anno e oppure all'inizio del prossimo anno. Insomma, stiamo passando settimane piuttosto in fermento, Enrico. Sì, sì. Allora, queste ricordo che sono soluzioni per pagare nei negozi fisici, quindi invece di usare la carta di credito tradizionale usiamo lo smartphone, però la funzionalità sostanzialmente è la stessa. Vado in un negozio, posso pagare con un POS abilitato. Ci sono già 200.000 POS abilitati con questo sistema che non richiede strisciate di carte di credito, insomma uno avvicina lo smartphone e può pagare tranquillamente. Insomma Enrico, la buona notizia è che l'e-commerce è in crescita anche in Italia, questa è sicuramente anche un'occasione per tante imprese del nostro paese, c'è sempre il lato B, no? In questo caso la brutta notizia è che potrebbero aumentare i rischi. Allora ricordiamo, ce li ricordi tu quali sono i pericoli da cui guardarsi, ci aiuti a individuarli, sì. Ce li spieghi in breve? Allora, innanzitutto direi che valgono molte considerazioni nel mondo virtuale, nel mondo online, molte considerazioni di quelle che noi facciamo nel mondo tradizionale, quindi precauzioni classiche le dobbiamo utilizzare nell'un caso e anche nell'altro, però prima di tutto quando facciamo un acquisto online scegliamo per bene il negozio, così come facciamo nel mondo fisico, sì. Probabilmente magari sospettiamo di alcuni negozi un po' disordinati in certe vie malfamate, è la stessa cosa va fatta su internet, controlliamo se il sito permette vari sistemi di pagamento, insomma diamo un'occhiata al negozio perché quello è il primo punto, la truffa potrebbe essere… Ecco, no, ma fermati un attimo, aiutami a controllare questo negozio, dammi le indicazioni che io sono sprovveduta. Allora, ad esempio, se noi cerchiamo un prodotto e troviamo un negozio online dove quel prodotto è ad un prezzo particolarmente basso, io mi sospettirei un pochettino. C'è anche un bollino del Consorzio Italiano del Commercio Elettronico che sostanzialmente è una E, perché sta per e-commerce, sì. Che quasi tutti i siti, i principali siti hanno, quindi ad esempio una certificazione io l'andrei a cercare sui siti. Sì, il bollino blu insomma. Sì, una sorta di bollino blu. Un'altra cosa che controllerei è se esiste un indirizzo, se esiste un numero di telefono, mi insospettirei un pochettino se non ci fosse modo di contattare il commerciante. Un'altra cosa che secondo me è molto importante è che, visto che quando acquistiamo online spesso dobbiamo registrarci sul sito internet, sì, scegliamo una password sufficientemente robusta, quindi non magari 1234, sì, e magari nemmeno Enrico 111, che sono molto facilmente carpibili da chiamandoti tu Enrico, certo. Esatto. Però direi che uno deve essere sostanzialmente tranquillo. Stare un po' accorto. Sì, però ricordiamo che le truffe nel mondo online sono più basse rispetto a quelle del mondo fisico. Mm. Quindi sostanzialmente io sarei molto sereno e affronterei questo mondo online del commercio elettronico con estrema serenità e tranquillità. Ecco, chiediamo anche ai nostri ascoltatori, se tu vuoi fare una domanda particolare, come lo affrontano, no? Se sono sereni, se conoscono già tutte le cautele. Una buona domanda sarebbe ponete sufficientemente attenzione alla password, che è un po' il primo lucchetto da tenere sott'occhio? Molti probabilmente no. Ad esempio, se facciamo acquisti spesso sullo stesso negozio, ogni qualche mese oppure ogni anno magari la password potremmo anche cambiarla. Allora, su Twitter, ti leggo, vuoi sapere cosa ci scrive Alex? Sì, 1980 sì. Su Twitter? Sì, sentiamo Alex. Vuoi saperlo? Allora, lui dice, Alex, sì, faccio acquisti online e sono registrato su 3 o 4 piattaforme. Questo ci scrive. Allora, lo chiediamo anche, era uno spunto, una domanda che abbiamo fatto anche noi ai nostri ascoltatori. Come vi comportate? Siete iscritti su più piattaforme? Continuate a scriverci e a parlare con noi. Abbiamo un'indicazione per Alex e per le persone che si ritrovano nella sua stessa situazione, se sono iscritti in più piattaforme, se fanno acquisti online con regolarità? Allora, se uno è iscritto a più piattaforme, torno alla password, non utilizzate la stessa password, perché se per caso su un sito questa password viene rubata da pirati informatici, potrebbero utilizzarla poi anche negli altri siti. Va detto anche che ci sono dei sistemi antitruffa e tutti i principali siti di commercio elettronico sono sufficientemente attrezzati per evitare le truffe, cioè si accorgono ad esempio se un pagamento arriva da un paese strano che non è quello dal quale arriva normalmente il pagamento, cioè se io abito in Italia e faccio pagamenti dall'Italia e ad un certo punto su quel sito arriva un pagamento dal Kazakistan, sì, sono dei sistemi per accorgersene, quindi vengo avvisato, le carte vengono sospese o bloccate, insomma dipende dai casi, insomma anche in questo caso usiamo il buonsenso, sappiamo anche che tutto il sistema del commercio elettronico si è adeguato negli ultimi anni e stiamo parlando di un sistema sufficientemente sicuro e quindi che possiamo affrontare con tranquillità. Allora, mi dai molta tranquillità, Enrico. Vedi. E allora Pietro ci chiama dalla provincia di Milano. Buongiorno Pietro. Sì, buongiorno, buongiorno. Che succede? È successo che ho acquistato dei biglietti tramite un sito che pensavo che fosse della Ryanair, e invece è un sito che si chiama www.online-ryanair.com, che è un sito di un'agenzia online, sita in Romania, sì, che mi ha preso i biglietti, io ho le prenotazioni, però anche un addebito di 100 euro per il servizio che mi hanno fornito, per carità non è una truffa, sono forse stato un po' incauto io, perché mi ha chiesto anche il PIN della carta di credito e a quel punto lì ho pensato di bloccarla, perché a questo punto loro hanno sia il numero, diciamo, della carta di credito che il PIN. E a questo punto io, non fidandomi più, ho fatto bloccare la carta di credito immediatamente. Ha fatto bene Enrico? Ha fatto sicuramente bene, però non ha fatto bene a comprare biglietti da un sito che a lui sembrava della Ryanair, ma in realtà non era della Ryanair. Torno al punto dal quale siamo partiti. Quando dicevi guardate bene il negozio. State attenti a che sia un sito internet. Allora, direi che se uno controlla un pochettino i siti, anche come sono fatti, come sono costruiti, non è difficilissimo capire che in alcuni casi stiamo parlando di siti internet molto, molto a rischio. Quindi questa è la prima cosa che io controllerei. Questa è una dimostrazione che appunto uno ha comprato su un sito che che è fatto da chi probabilmente fa questo di mestiere, cioè cerca di attirare l'attenzione di chi vuol prendere biglietti a Ryanair pur non essendo la Ryanair. Certo. Andiamo a Mark, che ci chiama dalla provincia di Torino. Buongiorno Mark, me l'hanno scritto addirittura con la K. Buongiorno Mark. Buongiorno. Nulla, dicevo che mi hanno scritto addirittura il suo nome con la K finale. L'ha detto lei o sta... Ah, ecco, allora è stato uno scherzetto delle nostre centraliniste. Allora Mark, ci racconti? Nulla, io ho vissuto un'esperienza mia personale per fare un regalo a mia moglie, sono finito su un sito, se posso dirlo, di disegual, ma tra l'altro spagnolo, però si è poi verificato un sito fasullo, fatto molto molto bene a livello di grafica. Sì. Io ho fatto denuncia alla polizia postale. Mark, senza K finale ma solo con la C, è caduto, ma Enrico ha capito, Enrico, una situazione simile a quella del nostro ascoltatore che ha comprato i biglietti della Ryanair, no? Esattamente, allora in effetti ci sono, visto che il commercio elettronico sta crescendo in tutto il mondo, naturalmente anche chi vuole fare truffe si è accorto del fenomeno e cerca di capire l'attenzione delle persone. Ci sono effettivamente dei siti internet che sembrano quelli di una banca, di una compagnia aerea oppure di un sito di commercio elettronico come quello che ci ha indicato l'ascoltatore, e bisognerebbe anche capire come ci è finito sopra, perché a volte su questi siti ci finiamo perché riceviamo una email di invito, un'email che ci propone un affare, allora noi clicchiamo su questa email, crediamo di andare sul sito della compagnia aerea oppure del negozio che vende abbigliamento, e poi in realtà questo sito non è proprio quello. Devo dire che anche qui, a costo di ripetermi, se noi andiamo a controllare e andiamo anche a vedere magari gli indirizzi, i numeri di telefono eccetera eccetera, io direi che possiamo stare tranquilli, nel 100% dei casi ci accorgiamo che non è il sito ufficiale di una marca o di un brand famoso. Bisogna fare un po' di attenzione. Insomma, per non prendere lucciole per lanterne. Esatto, e comunque non accettare ad esempio degli inviti che ci arrivano via email con offerte strepitose. In moltissimi di questi casi molte persone cadono nell'inganno perché le offerte sono particolarmente succulente, però se i prezzi sono estremamente bassi, un po' di dubbi io me li farei venire. Enrico, scusami, ma quando ci registriamo su un dispositivo per un acquisto, lo facciamo ad esempio per il cellulare di un figlio, i dati inseriti poi restano e si compra senza dover più inserire la nostra password o il numero della carta, giusto? Capita, per alcune piattaforme è molto più comodo perché non devi stare lì a digitare tutta la volta la password, però è anche un rischio. Allora, tu che cosa consigli? C'è un modo, che so, per ricevere degli avvisi ogni volta che si effettua un acquisto, ad esempio con un SMS? Che cosa dobbiamo attivare, a chi dobbiamo dirlo? Allora, nel quasi 100% dei casi, quando facciamo un acquisto online, ma quando l'abbiamo fatto, ci arriva una email, quindi comunque veniamo avvisati dell'acquisto effettuato, quindi già questo è un primo avviso. Alcuni sistemi di carta di credito ci mandano un SMS quando superiamo certi limiti di spesa, questo è un altro avviso. Certo però che qui stiamo parlando di avvisi che ci arrivano dopo che è stato fatto l'acquisto, dopo che è stata fatta la spesa. Allora, se stiamo parlando di uno smartphone, un tablet o anche sul computer, sì, sul quale ci mettono le mani i nostri figli, arriviamo poi anche a loro. Esatto, allora io direi che prima cosa mettere una bella password oppure un PIN segreto che conosciamo solo noi, quindi non mettere in mano terminali che hanno registrato sistemi di pagamento ai nostri figli, che magari consapevolmente o inconsapevolmente poi fanno degli acquisti e noi ci troviamo poi con un addebito che non riusciamo a recuperare. Però anche in questo caso è come dire, dareste mai 500 euro in mano al vostro figlio e lo mollereste per strada, certo, piena di negozi? Insomma, dareste la carta di credito in mano al vostro figlio? Bella domandona, dipende. 800 24 00 24. Stefano, buongiorno, ci chiama da Brescia. Carmelo, subito dopo, dalla provincia di Milano, che Carmelo Lauricella sicuramente lo lascerà parlare a lungo. Stefano, buongiorno. Buongiorno a voi. Ascolti, sollevavo un problema legato alla sicurezza, nel senso, questo pagamento tramite cellulare sui POS. Voglio sapere se si appoggiava una tecnologia NFC, quindi parlo al suo ospite, quindi magari sa di cosa sto parlando, perché questo tipo di tecnologia potrebbe essere facilmente clonabile quando vi fosse qualcuno con dei dispositivi atti a recuperare i dati che il cellulare trasmette direttamente al POS. Vedi Stefano, vedi Enrico, Stefano ha già capito, ha detto che tu forse capisci, a me mi ha già messo da parte e ha ragione. Enrico, facci fare bella figura. Sì, no, gli facciamo fare bella figura. Allora, questi sistemi sono molto sicuri, sono stati sperimentati a lungo, io ho partecipato anche delle sperimentazioni, quindi sono estremamente sicuri. Certo è che se un pirata informatico, un ladro, vuole rubare delle informazioni, lo riesce a fare, però qui faccio un paragone con il mondo fisico. Allora, non esiste nessun sistema d'allarme, nessuna porta blindata che blocchi il ladro che voglia effettivamente entrare in casa nostra, cioè se uno si impegna riesce ad entrare. Allora il problema è sempre quanto costo-beneficio, quanto devo investire, quanto mi costa riuscire a carpire delle informazioni dal mio cellulare e che vantaggio ne traggo. Allora, sicuramente se sono Barack Obama o il Presidente della Repubblica Italiana, probabilmente mi faccio delle domande, magari non uso questi sistemi, ma io stesso non mi preoccupo, uso questi sistemi tutti i giorni e non penso che nessuno abbia voglia di mettersi impegno a rubare i miei dati, posto che poi se ci abbiamo Carmelo, Enrico, io voglio almeno sentire la voce di Carmelo, lo devo a Carmelo Lauricella. Carmelo, rapidissimo, buongiorno. Sì. Buongiorno, io volevo dire che tra i sistemi emergenti di pagamento online e non esistono anche quelli basati sulla crittografia e sulla firma digitale. Questi sistemi praticamente non prevedono l'uso di un terzo attore, quale una banca o un gestore di carta di credito, perché sono completamente decentralizzati e permettono dei pagamenti sicuri anche tra sconosciuti. Il capostipite di questi nuovi sistemi, che sono sia di pagamento che di riserva di valore, è il Bitcoin. Volevo sapere se ne sapete qualcosa. Allora Enrico, magari questo potrebbe essere lo spunto per una tua puntata. Intanto Carmelo ne sa parecchio, come il nostro Carmelo Lauricella. Dimmi un'indicazione per il Carmelo 2. Allora, Carmelo è molto bravo. Allora, ricordo che a 2024, se andate nell'archivio di Radio 24 e cercate le puntate sui Bitcoin, ci siamo occupati di Bitcoin. Allora, stiamo in tutte le salse, ma noi abbiamo il GR, Enrico. E allora lasciamo la linea GR. Lasciamo la linea GR, ringraziamo Enrico Pagliarini, naturalmente Laura Banossi, Marco Lombardo e Carmelo Lauricella. Io torno domani, ci vediamo, ci sentiamo.